Ferry Boat, in viaggio verso l'economia sociale. Enzo Arganti, il traghettatore, ben trovati. Il numero di ferry boat più vacanziero, d'altronde è il periodo dell'anno in cui è più facile parlare di questo. La prima proposta è Vacanze Circensi. La scuola di circo Antitesi, che si trova a Pontedera a Pisa, propone un percorso formativo sulla teatralizzazione delle arti circensi attraverso lo studio della commedia dell'arte. Da lunedì a venerdì di questa settimana, un'opportunità per stare con se stessi in una breve ma intensa vacanza fuori dagli schemi. Vacanze ancora, questa volta parliamo di sostenibilità, turismo sostenibile, un concetto forse un po' vago. La Fondazione Agire Insieme di Agrigento ha cercato una risposta commissionando una ricerca alla Stanford University. Il presidente della Fondazione, Salvatore Moncada, è con noi. Buongiorno presidente. Buongiorno. Qual è la definizione dell'esito di questa ricerca della Stanford University? Guardi, io vivo in un territorio che dovrebbe essere, come dire, molto, molto attenzionato al turismo. Negli ultimi anni c'è stato un calo, abbiamo un patrimonio archeologico non indifferente, per cui ci volevamo chiedere quale fosse, ecco, la richiesta sul mercato da parte di un turismo e di turisti che hanno voglia di trovare cose particolari. Ovviamente hanno analizzato questi signori il nostro territorio e le peculiarità per un turismo sostenibile che hanno riscontrato sono il nostro slow food, c'è cioè i cibi locali, ovviamente dei paesaggi non contaminati e poi tutto quello di storico e artistico che abbiamo noi vissuto in un modo particolare. Ci hanno dato delle indicazioni ed è quello che presenteremo nei prossimi giorni per invogliare i colleghi e gli imprenditori dell'area a operare verso quella, ecco. Stiamo parlando di Agrigento, della Sicilia, che è una delle terre più ricche assieme all'Italia del mondo dal punto di vista artistico, architettonico e quant'altro. Lei, Salvatore Moncada, è anche amministratore delegato di Moncada Energy Group, che è una delle aziende più importanti di Agrigento, e quindi vogliamo sottolineare ai nostri radioascoltatori come ancora una volta l'azienda si distingua per attività di responsabilità sociale. La sua attività è di produzione di energie rinnovabili, è corretto? Sì, noi ci occupiamo di energie rinnovabili, abbiamo tutta la filiera integrata, cioè produciamo energia dall'eolico, biomassa e solare, ma abbiamo anche tutta la filiera che ci porta alla costruzione di questi impianti. Grazie al presidente di Agire Insieme e in bocca al lupo per il futuro turistico della sua Agrigento e della Sicilia. Grazie a voi, grazie tante, grazie. Alla prossima. Chiudiamo con un'altra notizia di intrattenimento. Fino a lunedì, Collisioni è un festival no profit che si tiene a Barolo in Piemonte. Ve lo segnaliamo perché è organizzato da un'associazione di volontari, ma soprattutto perché per 3 giorni il pubblico vive interamente il paese, come se fosse un unico palcoscenico. La comunità si organizza in una grande festa popolare di letteratura e di musica, insieme ai tanti scrittori e musicisti che arrivano per l'occasione da tutto il mondo. È tutto per oggi, vi invitiamo a cliccare su Mi piace alla pagina Ferry Boat Radio 24. Grazie ad Anita Panizza in redazione e a Filippo Aureggi in regia. Alla prossima.